Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ricordo che dissi qualche tempo fa che nel nostro transumare quotidiano per le vie cittadine esiste un fatale stargate che nessuno vorrebbe mai superare. È la porta che divide le due dimensioni, quella della vita quotidiana in cui siamo in normale, cagionevole, ma stabile salute, e quella che ci porta ad essere degenti in un ospedale. L'ospedale che vediamo da fuori, vediamo con la sua croce rossa, vediamo con le sue porte, con gli infermieri neghittosi davanti, con i medici con il camice bianco, gli zoccoli bianchi che vanno a prendere il caffè attraversando la strada polverosa, e vediamo nelle sue finestre azzurrine la notte, immaginiamo pieni di malati, di degenti, di sofferenza. Non abbiamo reale, concreta ed effettiva esperienza se non ci passiamo dentro. Oggi vi ricorderò una persona che ha passato una parte importante della propria vita nelle corsie di un ospedale e ha spiegato quali sono le regole di sopravvivenza, ammesso che ci se la possa fare dal punto di vista clinico. Uno dei racconti preferiti delle nostre nonne, ma ancora per qualcuno, ahimè, per le persone che ha accanto, è quello di descrivere le odissee in ospedale. Non avete mai fatto una fila in sala d'attesa anche di un dentista, di un podologo, di un qualsiasi paramedico che per una casualità voi dovete frequentare? Non vi mettete seduti vicino alle vecchie o agli umarell, perché sentirete delle strazianti storie da ospedale. E c'è sempre una storia di cateteri infetti, di unghie incarnite, di infermieri crudeli, di eviscerazioni cruente, di ferri chirurgici lasciati dentro. E c'è sempre qualcuno che non muore mai, ma va avanti in delle massacranti maratone di ospedale in ospedale. Io non voglio ironizzare sulla sofferenza dell'ospedale. Capita normalmente, nella maggior parte delle situazioni, nell'avventura esistenziale di un essere umano, di passare davanti a degli ospedali. Si vede la Croce Rossa sirena spiegata, si vede la Croce Rossa senza sirena, e in quel caso ci si preoccupa un po', si vede una fila di persone con borse in mano che vanno a trovare i parenti degenti, si vede, e capita molto a Roma, nelle adiacenze degli ospedali romani, non so se accada in altre città, medici, infermieri ciabattare ancora con le scarpe da camera operatoria, con i camici addosso, andarsi a prendere il caffè nei camion bar e nei chioschi di fronte agli ospedali. Questa è quello che si vede da fuori. Si vedono begli edifici, primi 900, addirittura palazzi ottocenteschi, c'è questa sorta di nitore esteriore, alberi, panchine, il sole accarezza le pareti degli ospedali, ma dentro c'è molta sofferenza, dentro ci sono persone che passano da una situazione di salute a una situazione di estremo pericolo, estrema ansia. Il clima che prende a chi attraversa un ospedale è quello innanzitutto della paura, dell'ansia, ma ancor prima c'è una sorta di spersonalizzazione, di uscita dal mondo. L'entrata in un ospedale è uno stargate fantastico. Dietro c'è il mondo delle persone sane, e al di là c'è un grande punto interrogativo. C'è quello che non si sa. Ci sono esseri umani che si occupano della tua salvezza, che ti potrebbero strappare alla morte, o strappare alla sofferenza, alla malattia, ma tu in cambio cosa devi dare? Innanzitutto devi dimenticare il tuo nome. Il pianeta degli infermieri è delimitato da due poli estremi, in cui si trovano l'infermiere e l'inferniere. Mentre il primo sa curare i pazienti con sentimento, il secondo infligge pene brucianti e dolorose, lanciando siringhe come dardi. Gli infermieri tendono verso uno dei due poli a seconda delle circostanze, delle capacità, dell'umore e, da tenere bene a mente, dell'insopportabilità del paziente. Siate intelligenti e cercate di capire dov'è il confine oltre il quale non è lecito pretendere. E poiché di solito gli infermieri ricevono più cazziatoni che complimenti, cercate di essere generosi nelle lodi. Claudio era per me il Robin Hood del lago Cannula, Tiziana la dea bendante, Cinzia, Letizia e Anna Maria le tre garze. 800240024, questa mattina libero sfogo. Ieri vi ho convocati a parlare d'amore E siete stati una schifezza. Avete parlato soltanto di problemi erettili e di tristi ricordi sentimentali di vecchi amori ammuffiti di 50 anni fa. Vediamo oggi come ve la cavate con la sofferenza. Oggi voglio racconti di storie ospedaliere, racconti di vicende da pronto soccorso. Non perché ci voglia ridere sopra, ma voglio dare sfogo a quello probabilmente è la sottile lussuria di coloro che mi ascoltano, che amano nel raccontare i loro momenti di sofferenza o momenti di sofferenza altrui. Ma questa mattina un vero esperto di ospedali visti dal punto di vista di chi indossa il pigiama, perché è come, da questo punto di vista devo dire, è come vedere quei film dove si parla di campi di concentramento. Ci sono uomini potentissimi in divisa che possono fare quello che vogliono, ci sono uomini resi inermi perché hanno un pigiama, come i film dedicati ai grandi carceri, alle grandi evasioni, alle grandi rivolte. Ci sono uomini in pigiama contro uomini in divisa. E questo accade anche dentro gli ospedali. E un esperto, un vero topo da corsia, è il signor 24, qua con me in studio. Signor 24, buongiorno. Buongiorno. Signore, forse troppo, solo 24. Beh, no, anche il signore non viene mai negato a nessuno in ospedale. Signor 24 è Fabrizio Blini, un nostro amico, uno scrittore, che oggi esce con un fantastico libro che vi può essere utilissimo perché è bianco con un H davanti, ve lo mettete addosso e già date l'idea che la vostra destinazione è l'ospedale, Storie di ordinaria corsia, il mondo visto dalla parte del pigiama, ADD Editore. Allora Fabrizio, perché hai scritto un libro sulle tue vicende ospedaliere? Quanti anni della tua vita hai passato in ospedale? Anni è un po' troppo, ho passato diversi mesi. No, messi tutti assieme, un annetto l'hai fatto. Un annetto quasi, sì. Beh, non è poco un anno all'ospedale. Ho fatto un po' più di una gravidanza, un po' meno di un servizio militare. Ma chi è che fa 9 mesi dentro l'ospedale? Rarissimo il caso. Quindi hai fatto un anno all'ospedale, quindi hai scritto un libro che però non è il solito libro denuncia sui disservizi degli ospedali, non è un libro politico. È semplicemente un'analisi di questa... Tu sei quasi un antropologo in terra sconosciuta, come se tu fossi andato in un territorio che conosce soltanto chi lo frequenta e racconti gli usi, i costumi e il clima, le superstizioni, le regole, le parole di passo di questo ambiente. Sì, hai detto bene, non è un libro che accusa la mala sanità, vuole essere un libro solidale. Perché... Non perché non ci sia da accusarla, ma in questo momento non è il nostro però compito. Però non è il nostro compito. Io ci tenevo più a scrivere un libro in cui, come dicevi prima, ho sfogato la mia esperienza di malato, ho raccontato i miei vissuti da paziente... No, scusa, una nozione di servizio, 800-24-0024, stanno arrivando telefonate e cominciano a raccontarci delle loro emorroidi, delle loro ulcere perforate. Non vogliamo le malattie è roba di Nicoletta Carbone. Raccontarci il rapporto con il personale ospedaliero, con i medici, con gli infermieri, con le corsie, con i rituali, e con l'ora della medicina, con i passaggi nel lettino, vita d'ospedale. Le malattie in questo momento non vogliateci, non è nostra materia. Prego Fabrizio. Il fine del libro è appunto questo, essere una sorta di guida, di manuale. Il signor 24 è una specie di Virgilio che porta il lettore attraverso i gironi dell'ospedale e gli spiega cos'è un ospedale, chi c'è in un ospedale e come si deve comportare, dà dei consigli. E questi consigli servono proprio a creare uno spirito un po' solidale anche con la gente che ci lavora dentro, perché poi si guarisce. Quindi sempre. Tu è un manuale delle giovani marmotte in pigiama, per far capire esattamente come conviene, tanto il sistema è quello, difficilmente si cambierà o non sarai tu de gente a cambiarlo. Assolutamente. Però ci sono delle regole di destrezza, come chi entra in galera subito apprende quali sono le maniere per ottenere il più possibile dalle maglie strette del carcere, anche chi va in ospedale, senza colpevolizzare nessuno, fare paragoni azzardati, è meglio che si addestri e cominci a capire. 800-24-0024, avete anche voi dei consigli utili per chi è ricoverato in ospedale? Nonostante sia un essere dai contorni vaghi e misteriosi, il primario Yeti è un esemplare più diffuso di quanto si possa credere. La sua caratteristica principale è l'irreperibilità. Tutti lo cercano, ma nessuno riesce a trovarlo. La maggior parte dei ricoverati nel suo reparto non l'ha mai visto, anche se alcune persone sono pronte a giurare sulla sua esistenza. Alcuni, ma pochi, dicono addirittura di averlo incontrato o di averlo intravisto di spalle, mentre saliva furtivamente le scale a 5 gradini alla volta, con piedi giganteschi. Malgrado le testimonianze, non sono state trovate che improbabili tracce del suo passaggio. Un brandello di camice, un paio di occhiali, un ciuffo di peli. probabilmente caduti dalle grandi orecchie. Allora, Fabrizio, cominciamo a parlare della gerarchia nell'ospedale. Tu hai già mostrato quello che è il demiurgo, colui che tutto può, a cui nulla è chiesto, è il primario. Capita al degente 24 di incrociare il primario in situazione cosciente? Beh, ci sono casi con primari molto presenti, casi con primari lieti, difficilmente visibili, e questo poi non fa altro che, nelle lunghissime giornate di degenza che i pazienti devono sopportare, si favoleggia, ci si parla, ci si confronta, e quindi si crea... C'è tutto un aspetto leggendario. Beh, assolutamente sì, si parla, si favoleggia. Anche degli amori del primario. Anche degli amori di primario si fa del gossip. Anche diciamo, perché... Ci togliamo subito questo dente, perché tanto ce l'ho qui. Queste situazioni di selvaggeria sensuale che si svolgerebbe nelle corsie nottetempo, ne hai avuto mai sentore? No, ai pazienti è questo accesso... Possono solo immaginare. Questo accesso è negato. Quello che succede nelle stanze dei medici fa parte appunto di quello che poi diviene leggendario, no? Si narra che nelle stanze dei medici ci siano cose le infermiere fantastiche, nude sotto il camice, sempre si immagina questa cosa, poi non è mai vero. Biliardi, affacci. Si prova a dire, stai descrivendo un ambiente fantozziano. E come Fantozzi immaginava le stanze alte dei mega dirigenti, con poltrone ricoperte di pelle umana, piante, quadri con naif preziosissimi ma orribili alle pareti, il degente sogna le stanze alte, la camera alta del primario come un luogo di delizie a cui lui naturalmente non arriva nemmeno una briciola. Beh, sai, il paziente è in una posizione di inferiorità, per cui c'è anche un'inconscia proiezione di un personaggio capace di tutto, perché in fondo quello il paziente spera, che sia capace di tutto, soprattutto di guarirlo. Ecco, abbiamo immediatamente una testimonianza palpitante rispetto all'orribile gossip che abbiamo soltanto accennato. Roberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Lei è un infermiere? Sì, sono un infermiere e ho anni di esperienza sia in pronto soccorso che 118, e quindi questa mattina, poiché l'argomento insomma avvertiva un pochino su quello che riguarda anche il mio lavoro, volevo lasciare le mie testimonianze. Siamo così, ribilanciamo, se no il signor 24 dice soltanto quello che è il suo punto di vista. Sì, lui... sì, ecco appunto. Quanto rompono le scatole questi degenti? Beh, le devo dire, sa, che insomma al pronto soccorso, anche poiché il pronto soccorso si divide in vari reparti, c'è il triage che è la prima accettazione, e ogni volta che vengono lì praticamente si sentono come se dovessero sfogare insomma tutti i loro malanni, tutti i loro acciacchi su di una sola persona, che è il povero infermiere che si trova lì davanti a loro. Che non c'entra nulla, che non può fare nulla, più di tanto non può fare. No, magari, però alle volte, vista anche la situazione un po' di caos che si può trovare nel pronto soccorso, uno cerca un attimino di svincolare, di cercare, guardi, provi dal suo medico, provi di qua, provi di là, per un attimino anche cercare di rendere più... Diciamo, lei è il primo filtro all'ipocondria delle persone che arrivano lì adducendo malattie che in realtà sarebbero risolvibili magari andando in farmacia, prendendosi un purgante o qualcosa del genere. Un buon 50%. Però purtroppo a volte la risposta è sempre quella: ma il mio medico non è italiano, non parliamo, non ci capiamo, dove vanno? Sempre troppa gente. Cioè, non lo so, non è italiano. Fabrizio Blini, resti in linea Roberto, è importantissima la sua testimonianza. Vediamo di corroborare quello che già sta dicendo l'infermiere. Il malato immaginario. Tu arrivavi con malattie gravissime, devastanti, che ti tenevano sospeso fra vita e morte, ma ci sono tantissimi che vanno lì all'ospedale per rompere le scatole, che non c'hanno niente da fare. L'Umarel è il tipico malato immaginario che va in farmacia, quando la farmacista si è stancata e ha detto guarda, non ti posso dare più nulla, va al pronto soccorso a passare una mezza giornata. Sì, beh, poi il pronto soccorso è un mondo assolutamente diverso, è proprio la palestra del purgatorio. Ma per quanto riguarda gli infermieri, ci tenevo a dire una cosa, che l'infermiere poi in ospedale per un paziente è la figura più prossima al parente, perché è colui che ti sveglia la mattina è l'ultima persona che vedi prima di andare a dormire. Poi è un paramedico, quindi non ti intimorisce esatto, dall'alto della sua laurea. Non intimorisce come il medico, che si conserva in una posizione più asettica, e quindi con l'infermiere c'è uno scambio di umanità più spicciola, più vera, sopperisce a quello che uno non ha. Di solito uno esce di casa, fa due chiacchiere con l'edicolante, col barista, invece... Poi c'è questa voce comune, l'infermiere ma ci capisce più di un medico. Ti ha visto un medico? No, mi sono fatto vedere dall'amico mio che è infermiere, ma però ci capisce più di un medico. Beh, ci sono infermieri che ne hanno viste veramente tante, rispetto magari a un medico neolaureato ne sanno... non di più, però hanno quella malizia, quell'esperienza e quella capacità di poi sapere quello di cui ha bisogno un malato, che poi fondamentalmente è una parola di conforto. Sentiamo Fabio, mentre Roberto ascolta, perché Fabio ha una domanda da fare proprio sugli infermieri. Mi sono partiti dal primo livello, dai graduati di truppa dell'ospedale, che sono gli infermieri. Poi c'è la diplomata, la caposala, adesso non so come funzioni bene. Fabio. Sì, buongiorno, salve. No, io la mia esperienza è stata, io sono stato ricoverato perché feci un incidente alla mano, mi ruppi la mano. Come se la ruppe la mano? È un incidente col motorino, uno scooter. E niente, quindi che cosa è successo? Che gli infermieri, come state dicendo voi, da quello che avevo capito, comunque hanno un ottimo rapporto, almeno nella mia esperienza avevano un ottimo rapporto. E praticamente un infermiere mi portò nella mia degenza dei medicinali che mi doveva somministrare, però praticamente questi scarseggiavano, me ne diede qualcuno in più dicendo guarda te ne lascio qualcuno perché ne mancano, quindi va a finire che dopo non ce li hai. Poi tornò dopo un'ora e disse guarda mi servono per gli altri, perché mi servono per altri malati, e glieli tolse di bocca praticamente. Glieli tolse di bocca le pillole che aveva già mandato giù. No, mi lascio proprio giusto la mia razione, poi con la speranza che ce ne arrivassero degli altri. Ah, sarà pentito. Perché loro anche combattono magari con purtroppo con pochi mezzi che hanno, voglio dire, nel senso che comunque ci mettono tutta la buona volontà per quindi per lei le colpì questo gesto di umanità che le dette due pillole in più. Per riguardo agli infermieri, mentre invece caso opposto con un medico di turno che venne, mi ricordo una scena unica perché era di sera, arrivò questo medico, noi stavamo tutti in silenzio nei letti, lui ci osservava e scriveva, guardava uno alla volta ognuno di noi e scriveva sui suoi foglietti. Io, dovete certo stare punto, zitti fermi. Zitti così, scusi, ma lei mi ha chiesto che cosa mi sento, cioè io non le sta scrivendo, ma lo sa di che cosa sto soffrendo? No, non si preoccupi, non è tutto a posto, è tutto a posto. Io invece stavo malissimo, tra parentesi, perché poi, peraltro, a Loreto Mare, che è un ospedale un po' particolare, io avevo questa frattura alla mano ed ero stato ricoverato in medicina perché non c'erano posti in ortopedia, e i posti poi informai non c'erano perché molte persone... Ma è andata bene, andata a finire in ostetricia, qualcosa del genere, sarebbe stato peggio. Come non no, poteva andare in ostetricia, era peggio, diciamo. Almeno... Ah, sì, sì, sì. No, vabbè, ma la cosa assurda era che non ci trasferivano a me e un'altra persona che eravamo in ortopedia, che in medicina dovevamo andare in ortopedia, perché molti letti non volevano lasciati, perché molte persone non volevano tornare a casa. Certo, uno, chiaro. Perché non avevano magari da mangiare, non erano, e quindi chiedevano ai medici di rimanere lì, almeno essere, diciamo, essere serviti là. Grazie Roberto, grazie Fabio. Roberto, un velocissimo commento a quello che dice Fabio. Sono episodi correnti, le persone che non se ne vogliono andare perché lì c'hanno vitto e alloggio. Sì, a supposizione di questa, insomma, ipotesi che voi... C'è la gente che non vuole mollare il letto d'ospedale perché ci sta talmente bene. Ma oltre che il letto, dico rapidamente una situazione che avvenne in pronto soccorso. Praticamente un signore venne in pronto soccorso, bene, sì, mi dica qual è il suo problema. Beh, venne in pronto soccorso poiché a casa non accendevano i termosifoni. Lì si trovava bene, stava al caldo, TV, stava al caldo, quindi noi l'abbiamo lasciato lì. A fine turno, io andando a casa, più o meno questi pazienti sono sempre quelli che tornano e ritornano e ritornano e ritornano. Gli ho detto, va bene, guardi, se vuole un passaggio l'accompagno a casa. Sì, va, grazie, che mi sono riscaldato abbastanza. Vabbè, e sembra... si fa anche questo. Beh, una fantastico. Sigaretta magari al povero psichiatrico che è ricorrente, che torna sempre lì, un caffè magari al barbone per scaldarsi in inverno, e si fa anche questo, si fa anche questo, e si cerca un attimino di, insomma, migliorare per quanto possibile con i mezzi che si ha a disposizione l'ambito lavorativo. Grazie Roberto, ecco. Grazie Roberto, fermiamoci. Fabrizio Blini, hai avuto un quadro fantastico. L'ospedale quasi come una sorta di luogo di cura psichiatrica, cioè la persona che vuole rimanere lì perché ci sta bene, quello che va lì perché c'è un pasto caldo. Questo aspetto umanitario però il signor 24 dovrebbe considerarlo. Ma lo considera assolutamente, anche perché partiamo da questo presupposto. La malattia provoca una contrazione dell'ego, perché è umiliante, è qualcosa che ti penalizza. È come la carcerazione, diciamo la verità. L'ospedale rincara la dose, per cui è assolutamente necessario poi trovare forme di solidarietà umana, di scambio, cosa che si crea molto per esempio tra malati. E tra ricoverati si crea un'amicizia che ci si può dire amici per la pelle, però solo per qualche giorno, perché poi al momento delle dimissioni questa bolla di sapone scoppia. Sì, come quando si fanno amicizie in vacanza, poi ci vedremo, e grazie non ci a Dio, si vede più. Grazie a Dio non ci si vede mai, ma soprattutto chi ha diviso il pitale e la padella non è che ha più voglia di vedersi in situazioni normali. Melog, la realtà condivisa. Permesso, professore. Mi lasci passare, ho un appuntamento. Avanti, avanti, chi è? Di che si tratta? Come? Ma non vede che naso? Lo vedo, niente di grave, naso a peperone. Uno degli interventi più facili, più sicuri e meno costosi. Basta pelare il peperone e voilà, il tutto per 1.000.000. Permette, signora? Levate le orecchie che si leggono in testa e il resto è tutto da rifare. Il suo identikit, lei oggi è così. Oh, ma professore! Zitta! Lei oggi è così. Intervento totale. Alla Strogonoff sulla regione mammaria, epigastrica ombelicale, glutea e femorale laterale, otterremmo questo risultato. Dorothy, tutto compreso, 5.000.002. Mi sento già più giovane. Nessuno come il professor Terzilli ha reso l'idea in peritura e ancora attuale nei decenni che sono passati, del punto di vista di colui che sta in pigiama e guarda il medico. In questo caso era il medico della muta, poi si era evoluto, si era messo a fare il chirurgo plastico. Questa mattina stiamo affrontando l'ospedale visto dall'interno, visto dal punto di vista del decentro. Facciamo con uno sguardo molto particolare. Qualcuno ha notato nell'incipit di questa trasmissione un accentuato senso di ironia che suona sinistro per chi soffre. È vero, ma dal libro di Fabrizio Blini, Storie di ordinaria corsia, il mondo visto dalla parte del pigiama, ADD editore, che stiamo celebrando questa mattina perché oggi esce in libreria, io mi sembra di aver capito che sono due punti di vista possibile per chi si trova in pigiama a stare dentro un ospedale. Può capitare a tutti, è un momento, è un ratto fulmineo della nostra vita per cui ci troviamo anche noi in pigiama dentro un ospedale, non ce lo saremmo mai immaginati, ma il mondo cambia. A quel punto abbiamo due chance, due possibilità. Fabrizio Blini, quali sono? Mettersi a piangere o mettersi a ridere, perché l'ospedale è il luogo che più esalta il tragico e il comico contemporaneamente, e ai malati, visto che sono già in una condizione tragica, conviene guardare il lato comico, perché si dice che le disgrazie non vengono mai sole. Beh, in ospedale organizzano delle comitive, quindi ridere è anche un modo di farsi forza, di rimpicciolire la malattia, di sentirsi di nuovo in una posizione di superiorità. Ridere disinfetta. Quindi, se vogliamo dare una prima grande regola massima da questo tuo libro, che è un vademecum per il degente, fra l'ironico e l'amaro, come destreggiarsi nella giungla sconosciuta degli ospedali, soprattutto per chi ancora non l'ha mai frequentati. Poi ci sono gli abitué che sanno tutto, tu sei stato un abitué, quindi conosci bene queste corsie, di non prenderla troppo tragicamente, cercare di cogliere il lato ironico, anche se mi rendo conto che è molto difficile, però è l'appiglio migliore per passare indenni, almeno dal punto di vista della propria compattezza psicologica e umorale. Sì, è un modo di radunare le forze e reagire. Non è vero che una risata ci seppellirà, una risata ci dimetterà. Sentiamo Ivano se può aggiungere qualcosa a questa tua formula di felicità o di lieto trascorrere anche in corsia d'ospedale. Ivano, buongiorno. Buongiorno Gianluca, io ho sentito un po' la trasmissione all'inizio, parlavate insomma anche di quello che succede è un po' una leggenda metropolitana di quello che può succedere nelle stanze, nelle stanzette fra medici, infermieri, no? Eh sì, noi vorremmo avere delle notizie che supportino questa leggenda, non ne abbiamo di prima mano. Io ti posso dare una testimonianza personale del fatto che mi è successo. Io ti ammiro per il tuo coraggio e ti ringrazio. Vai avanti. Io niente, sono stato fidanzato qualche anno fa con una dottoressa e... Ma prima o dopo la degenza? L'hai conosciuta nel momento del dolore o dopo? No, è stato ex degenza. L'ho conosciuta in un altro ambito e poi mi sono scontrato con questi fatti che sapevo che erano leggende, ma ho constatato... Lei ti ha confermato che è vero? Sì, perché io poi, diciamo, avevo sentore di questo, diciamo, di questa situazione... era fidanzata con me, però ma tu, scusa, tu banalmente sei fidanzato con una signora che è medico oppure l'hai conosciuta in quanto ricoverato, perché cambia moltissimo il rapporto? No, io non ero ricoverato, io l'ho conosciuta in un altro ambito. Va bene, però? E poi lei aveva una relazione col primario. Ti ho confessato, guarda, io sto con te ma sto anche col primario. No, io l'ho beccata, dopo che l'ho beccata. Ti mentiva? Sì. E la cogliesti proprio sul fatto? L'ho colta sul fatto perché c'erano delle situazioni che mi lasciavano. E dove avvenne, diciamo, la scoperta? Dove consumavano? Beh, diciamo che stiamo parlando della zona di Pisa. No, non voglio sapere la città, no, guai, assolutamente, dimentico. Ma il luogo fisico, nella sala operatoria, nell'autoclave, non lo so dove possa accadere questo. No, i primari hanno a disposizione di alcune stanzette all'interno degli ospedali dove fanno visite private. Dove operano? Insomma, hanno queste stanzette che la chiave ce l'hanno soltanto loro e poteva avvenire lì se c'era il momento di libidine, diciamo, preso sul e come lavoro. Dicono, vado a fare una colonscopia e poi vanno, come funziona? Bravo, insomma, chiama la dottoressa e insomma possono avere un momento, diciamo così, anche dentro l'ospedale, però poi succede anche fuori, quindi insomma. E questo è risaputo, lo sanno, diciamo, le maestranze? Questo è risaputo, chiaramente, insomma, c'è un velo sopra, si sa, non si sa. Anche perché me l'ha confermata anche una mia amica che fa l'infermiera e insomma mi ha raccontato. Però il rapporto è diverso fra dottoressa e infermiera. Guardi, io do perfettamente credito alle sue testimonianze, anche perché ho visto molti telefilm in cui questo accade, tutti i telefilm di genere ospedaliero, c'è sempre la dottoressa e il primario, l'infermiere e l'infermiera, l'infermiera e il medico, raramente c'è il degente e l'infermiera o il degente e la dottoressa o il dottore e la degente, questo è molto più raro però. Stato degente, non mi è mai capitato, bensì che insomma fai anche dei complimenti, insomma delle belle infermiere, ma non... Si accade solo nei film di Alvaro Vitali, onestamente. È difficilissimo, guarda, ma mi è capitato magari quando sono stato fidanzato anche con un'infermiera che l'andava a trovare durante il turno di notte, lei mi faceva entrare da una porta secondaria. Non dice questa è la cosa, lei entrava nottetempo nell'ospedale e trasformava il luogo di sofferenza nella sua alcova di piacere. Quando lei faceva il turno di notte, insomma, ogni tanto mi diceva vieni stasera, non ci sono problemi. Ma come se sudivate il rantolo del morente, non vi distoglievate dal vostro atto innominabile? Sì. No, beh, lei si vergogni, Ivano, questa è una cosa bruttissima. Sì. Fabrizio Blini. Ma guarda, il degente riguardo al sesso è in una posizione... È l'ultimo dei problemi. È l'ultimo dei problemi. Diciamo che è importante tenere sul morale, il resto si alzerà con calma. Sì, ma non credo che in quel momento ci si possa pensare molto. Ma poi quello che volevo dire è che l'ospedale amplifica tutto questo gossip per un semplice motivo, perché c'è tanto tempo... Non c'avete niente da fare. ...da fare, e quindi si favoleggia. Cioè, una delle prime cose che deve capire un paziente è che il tempo... a un altro fluire, cioè non scorre, struscia i piedi, ciabatta anche lui, no? Per cui le giornate sono lunghissime, per questo è bene fare il malato a galla quando si è in ospedale. Il morto a galla no. Il malato a galla come funziona? Ma il malato a galla è lasciarsi un po' trascinare dalla corrente senza essere impazienti. Uno dei primi consigli che do è quello di togliersi l'orologio. Se uno comincia a fissare le lancette, queste si piombano sul quadrante e il tempo non avanza e non passa mai. Andiamo avanti con le nostre testimonianze. Agnese, finalmente una donna. Agnese, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io ho una lunga esperienza di ospedaliera in gioventù, dai 19 ai 21 anni compiuti. E devo dire che è stata un'esperienza fondante nella mia vita, perché io ne sono entrata con i complessi di una ragazza degli anni fine anni 50 e sono uscita con un senso di libertà infinita. E chi ha provveduto a liberarla in ospedale? Due anni di ospedale, per l'appunto, superare una malattia grave per la quale ancora si moriva, mi ha dato un'energia enorme, ma ho avuto anche, è stato anche un punto di osservatorio veramente interessantissimo, per scoprire che intanto eravamo trattati benissimo, perché la TBC allora era una malattia tenuta veramente, ospedali in montagna, l'ospedale si chiamava il sanatorio, si ricorda? Sì, sanatorio. Il sanatorio, sì. Però potevo osservare, poiché non è una malattia che dà dei dolori immediati, specie quando si sta in sanatorio, osservavo molto bene da giovane, oltre ad essermi letta nel frattempo, mi leggevo La montagna incantata. Non sì, c'è cioè, un grande alone romantico su queste sì, eroine certa. Malate di tisiche. Esatto, una malattia completamente destinate a spegnersi proprio per questo, affamate nei loro appetiti sessuali. Accadeva anche a lei. Magari eravamo ragazzine. Vabbè, insomma, io mi sentivo una ragazzina a 19 anni. Beh, 19 anni. Ero giovane, ero al secondo anno di università, insomma, la vita aveva un altro prospettivo. Quindi è stata la sua montagna incantata, al suo momento. Sì. E io devo dire che ho preso moltissimo, perché ho visto innanzitutto la lotta interna fra gli istituti diversi, cioè i medici sono disposti, come è stato nel mio caso, a darti le dimissioni se tu intendi passare ad un altro istituto. Le pensi, lei parla poi di parecchi anni fa. Sì, ma questo si è ripetuto anche in altri casi, in cui per esempio ho visto la lotta fra medici e chirurghi. Beh, questo mi sembra logico. È una cosa veramente dilaniante. Fabrizio Blini, scusa, questa sorta di marketing interno fa parte di uno dei passatempi, è come l'interruzione per la pubblicità in un programma televisivo, avere anche questa sorta di sollecitazione, andare in quel posto miracoloso con quel medico taumaturgo. Sì, ma si avverte meno. A me quello che mi ha colpito di questo intervento è stato proprio la sensazione di liberazione dell'uscita. Essere dimessi dall'ospedale è un'esperienza bellissima. Il signor 24 cita Dante e dice: e infine uscimmo a rivedere le strade. E quindi questa banalissima uscita, al varcare il cancello e ritornare nella normalità, è comunque un'esperienza. Senti, ho mai pensato, ci penso spesso, solo una battuta riesce a capirmi, com'è la città banalmente sana vista dalla finestra di un degente? Tu vedi le macchine passare fuori, i negozi, le persone e non hanno il tuo problema. Come la vedi la città? Guarda, quando stai dentro? È una quinta teatrale che sbiadisce giorno dopo giorno, perché si allontana sempre di più il fuori, no? Il signor 24 dice che l'ospedale è un'isola bagnata dal male. E quindi quello che è fuori dai vetri si allontana sempre di più man mano che la degenza si allunga. È come quel famoso racconto di Buzzati, di un ospedale fatto a tanti piani, un degente che entra non c'aveva nulla, ogni volta lo fanno passare di piano perché la sua malattia si diventa sempre più grave, alla fine entra nel piano dei moribondi, dove lui nemmeno si rende conto che non vede più il mondo, non esiste più, esiste soltanto questa è come sorta il deserto di Tartar. Esattamente. Melog, la realtà condivisa. E la macchina, quella che gli ha dato la botta, no? Per testa coda si è messa a girare così, come una trottola. A un certo punto te sento un botto, uno schianto. Scendo, e il ragazzino è proprio finito, proprio non esisteva più, cioè fisicamente era proprio disintegrato. Ma tu devi dare la macchina come era ridotta. Ma ciò, guarda, te giuro. Ma che sai, fammi finire. Era proprio come una scatola di sardine, no? E in mezzo a ste ferraglie c'è stava, nome una donna. Lui, l'uomo, no? All'inizio si è mangiato proprio tutto quanto a schiatti, così, proprio come una marionetta. Aiuto, salvatemi, così, no? Beh, è una contrazione nervosa. Tutti i denti per terra, proprio come se fossi stata una grandinata. Schizzi da sangue sull'unotto, sul cruscotto, pezzetti da cervello sul contachilometri, dove io macello. Sembrava di proprio profondo rosso. A un certo punto esce fuori un vecchio che fa, dice, presto, dice, chiamate l'ambulanza. Dico, ma che chiama? Dico, no, vedi che questi c'erano, siano 30 secondi di vita. Au, sono passati 20 secondi, sono spirati così, proprio a unisono. Mortacci loro. L'altra sera non mi trovo a passare per Ponte Vecchio. No? Certo Fabrizio Blini, questa sorta di cinismo splatter di Verdone, l'ha mai trovato nel tuo peregrinare da signor 24? C'è una sorta di gerarchia delle malattie, mi hai detto. Di fronte al malato di una grande patologia, in realtà ti senti stupido e tu c'hai soltanto, che ne so, un'ernia. Sì, è una cosa che capita spesso, quella della gerarchia del male, perché Tra i ricoverati ci sono i turisti della malattia, i dilettanti del disagio, quelli che non sono abituati, e poi degli esseri invece che dell'ospedale ne hanno fatto la loro fortezza. Come in guerra, i veterani. Come in guerra, i veterani che sanno tutto di tutto. Con loro è inutile... Con le ferite di mille battaglie. Con loro è inutile mettersi in competizione, perché comunque la tua patologia sarà sempre un'inezia in confronto alla loro odissea, al loro travaglio che hanno dovuto... attraversare. Vabbè, come ogni Miles Gloriosus, racconteranno anche, aumenteranno quello che è il livello delle loro sofferenze, perché è la loro epica personale. Sia il racconto che poi anche la competenza, perché loro poi diventano così esperti di malattie che ne sanno anche più dei medici, quindi danno dei consigli, diventano dei veri punti di riferimento dell'ospedale. I malati della categoria divi recidivi, con i loro numerosi malanni, mascherano e soddisfano una profonda voglia di protagonismo. Raccontano le proprie disgrazie con enfasi omerica, riempiendosi la bocca di malattie rare, con l'obiettivo di essere ammirati e di farti sentire un cazzaro del malessere. In ospedale sono facilmente riconoscibili per il volume di parole espresso. Esibiscono le ferite in pubblico ad alta voce, anche le più private, vantandosi della quantità di cicatrici, di punti e di pus. Le storie sono romanzate e gonfiate con particolari truculenti, molto più di quanto siano le ferite. Durante l'ultima operazione avevo il torace squartato e ho perso 10 litri di sangue, ma non mi hanno fatto l'anestesia totale. Altrimenti chi diceva al chirurgo quello che doveva fare? Oppure ho avuto un incidente con fratture scomposte mai viste. Un femore era a Rieti, uno a Foggia e uno ad Aosta. E me li sono andati a prendere da solo. Questa non è fantasia, ma è un'esperienza diretta, tratta dal libro di Fabrizio Blini, Storie di ordinaria corsia, Il mondo visto dalla parte del pigiama, ADD editore. Fabrizio, hai sentito veramente racconti del genere? Sì, questi ci hai messo un po' del nel tuo. Libro sono un sì, po' sì, femori, una Rieti, una Roma, magari quello no, però si ironizza. Il maniaco delle proprie ferite ed ospedale, sì. Sì, gente si tira sulla maglietta, ti fa vedere lo squarcio della ferita. Assolutamente, anche per far vedere che lui è più malato di te, cioè c'è un tale bisogno di affermazione individualistica che si è disposti a mostrare di tutto pur di sembrare più importanti, più forti degli altri. Riccardo, buongiorno Riccardo. Buongiorno a voi. La sua storia? La storia è semplicissima, io ero direttore di questo ospedale mai 12-13 anni fa, questo è avvenuto, in una ispezione una porta in un sotterraneo non si apriva, nessuno aveva le chiavi, chiediamo di chiamiamo un fabbro e la facciamo aprire, volevamo capire cosa ci fosse dentro. E c'erano gli zombie? E non, no, c'era, era una stanza perfettamente in ordine, con tutte le pareti coperte dagli imballaggi delle uova, allora si usavano... Ah, insonorizzata. Insonorizzata, con un letto perfettamente rifatto. Dove andava a trombare il primario, diciamolo chiaramente. Ma diciamo non si capiva se era dedicata ad uno, se era una sorta di room sharing a disposizione di un circuito, diciamo, di qui c'è un'insonorizzazione, un letto assolutamente insonorizzato, un letto pulito, e poi con le lenzuola dell'ospedale, ovviamente. Non, quali altri accessori? Le lenzuola non mancano, come ovvio, insomma, e questa è, diciamo, fu una sorpresa un po' per tutti. Ma non c'erano equivoci accessori disseminati? No, in giro non c'erano, non presidi c'erano medici, ulteriori presidi, no, diciamo così, di sorta, tant'è che qualcuno sospettava che potesse essere addirittura un rifugio per qualche terrorista degli anni precedenti. Insomma. Però l'insonorizzazione, però, non si capisce a questo punto. Più accreditata era che fosse un'alcova clandestina. Un'alcova organizzata, molto ben organizzata e anche molto ben manutenuta, insomma, ecco. Sì, sì, ma confidavano in urla di piacere e di spasimo da parte, diciamo, delle persone che sì, la frequentassero. Anche nel potersi esprimere vocalmente con urla senza temere di disturbare i pazienti e gli altri operatori. Non si sono negati nulla. La ringrazio, Riccardo, di questa preziosa testimonianza. Augusto. Eccoci. Eccomi. Pronto? Qua. Sì, lei cosa ha visto? Ah, dunque, io volevo dire che purtroppo ho cominciato a frequentare gli ospedali milanesi 25 anni fa. Beh, è un veterano, ne sarà fiero. guardi, ne ho passate di tutte e naturalmente sono sempre stato ricoverato in pazienti in reparti ad alto rischio. Vorrei vedere. Quindi lei è di quella categoria, è quella categoria, sta dicendo. Ho avuto un infarto 25 anni fa e mi ritrovo assolutamente nelle parole del signor Fabrizio. Ha citato tutti gli argomenti che volevo citare io. Me ne ricordi qualcuno? Non so, per esempio la grande dedizione degli infermieri del Niguarda. Vabbè, adesso vuol fare i ringraziamenti, io volevo parlare delle sue ferite di ospedale, ma... Dunque, c'è una cosa fondamentale, che per il malato, che già è malato, già si trova in un disagio logistico importante, perché viene sradicato da casa sua e si trova in un letto d'ospedale, alla fine quello spazio ristretto dell'ospedale diventa il suo mondo. È chiaro, e infatti il libro di Fabrizio Blini ha proprio l'idea di doverci dare degli orientamenti in questo fantastico mondo parallelo con la corsa all'ospedale. Lo ricordo, ringraziando e salutando Fabrizio, Storie di ordinaria corsia, il mondo visto dalla parte del pigiama. Fabrizio Blini, a domani. Arrivederci.